Il tuo profumo sul letto che hai lasciato qui e sul comodino il tuo pacchetto di sigarette che hai dimenticato qui. Dopo un'altra litigata sei andata via da me. Dici che non mi vuoi vedere più e che per te io non esisto più. Ma penso solo un attimo a quando stavamo bene io e te. Ma ti ricordi quando camminavamo ci guardavamo negli occhi e capivamo quando ci amavamo. Ora sono già 6 mesi che non ci sentiamo più e tu passa insieme ad un altro e non vuoi e non sai. Ma ti ricordi quando camminavamo piano, mano nella mano, fianco a fianco, e ci guardavamo negli occhi, capivamo quanto ci amavamo. Ma ti ricordi quando camminavamo?